Yes People, questo è Jolly Roger. Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è la nostra sesta barra settima puntata di Jolly Roger. Come consuetudine siamo in diretta dal Brancaleone, quindi salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche dello spazio, salutiamo le nostre amiche del gas che sono qui presenti insieme a noi, salutiamo tutte le varie realtà che frequentano lo spazio. E niente, iniziamo la nostra puntata sempre con un po' di musica e poi iniziamo con le parole e i racconti. Amore antico, amica mia, amore radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Primo pezzo per noi. Orrore amico, errore mio. Ti ho detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto mi dicono vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini. Soltanto per un LP, il lavoro. amore, anima mia. Amore non ha sinfonia. Vorrei sapere come stai, se come scrivi è tutto ok, e se davvero ora lo sai che sono diventato un mostro, colpa tua. Se mi dividerò nel buio di un vicolo, all'uscita posteriore di un concerto rock, cominciare una troietta qualunque, una tizia, una pittrice, ma che ne so. Il tuo pessimismo da quattro soldi chiaramente aveva fatto proseliti. I wanna be Amanda Lear, il tempo di un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così. Amanda Lear, soltanto per... E rieccoci qua, siamo tornati in diretta sempre dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Sono le 17:08, siamo partiti con la nostra sigla, col primo pezzo di Baustella, Amanda Lear, e abbiamo iniziato la prima tranche di saluti. Questo venerdì fortunatamente tutta la crew al completo, quindi iniziamo direttamente i racconti che facciamo, e quindi passo il mic direttamente alla nostra amica Alice. Ciao a tutti, due lunedì fa sono andata per la prima volta a fare una prova di reggaeton nella palestra. Sport Village a Roma è una parrocchia, e dentro c'è la palestra. Prima di andarci abbiamo visto la strada e le foto del posto con Elena, e poi ci siamo incamminate a piedi e pure vicino casa mia. E con il 341 ci arriviamo direttamente. All'inizio della lezione ero un po' emozionata perché non ero mai stata in quella palestra, e perché era una cosa nuova con Elena. Abbiamo parlato e abbiamo capito che le cose nuove ad ognuno di noi ci emozionano, chi sta in silenzio, eccetera, eccetera. E per questo che è bello fare cose nuove. Infatti mi sono divertita tantissimo, e comunque faticoso, ma la musica mi carica, e per questo che oggi vi farò ascoltare un po' di reggaeton. Perfetto, e quindi questo era il racconto di Alice della sua prima lezione di prova di reggaeton. E noi, visto che di reggaeton si parla e si parlerà, perché ora ne ha accennato la sua prima lezione di prova, piano piano magari ci racconterà nel dettaglio quelli che sono i balli, i passi e compagnia bella, e poi chissà, un giorno magari faremo pure una lezione. Detto questo, partiamo con la musica. Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró. sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró. Noi balliamo un pochettino per scaldarci un attimino, non è freddo ma l'umidità ci ammazza. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a kissy? Can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. Que ella, ella se vino. Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Daña mi la musa, ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. E questo era il pezzo scelto da Alice del suo racconto di quella che è stata la lezione di prova di reggaeton. E niente, fortunatamente è la prima lezione di prova, ma piano piano vi racconteremo delle belle. Ora passo il mic al nostro amico Matteo, che ci racconterà. Lui da un paio di settimane con Matteo stiamo iniziando a trattare l'alimentazione degli atleti. Abbiamo parlato quindi dell'alimentazione dei calciatori, abbiamo parlato dell'alimentazione dei piloti e ora parliamo dell'alimentazione dei piloti di moto. Visto che c'è stato anche l'assegnazione di quello che è stato il titolo mondiale, dopo svariati anni siamo riusciti a ritornare in vetta e siamo contenti così. Ora, detto questo, nel frattempo è appena arrivato il nostro amico Lucone, accompagnato dal nostro amico Zarra, Alessandro, e niente, come dicevo prima, ora parliamo dell'alimentazione dei piloti di MotoGP. Allora, buonasera a tutti, sono Matteo. La dieta dei piloti di MotoGP colazione, avocado, oppure un tot, pranzo, rido il fiacco, durante la giornata, legumi, nicola, nicola, perché danno il GIA? Cena, pollo con vetture, con poco olio. Mangiano tante banane. Domenica, mangiata con tratti e capogione di modo di modo di B. Dopo 50 anni, vince un italiano con una moto italiana. Perfetto, come abbiamo detto, questa è l'alimentazione dei piloti di MotoGP. Siamo contenti, come dicevo anch'io prima, dopo anni di aver vinto qualcosa, e passiamo al primo pezzo scelto dal nostro amico Matteo. Torniamo in diretta, questo è come sempre Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Abbiamo parlato prima dell'alimentazione, ora parliamo di quello che è il must del nostro amico Matteo, e sono i pronostici delle partite. Partite tappato, andiamo a venire e non in rete. La parola legge pide lecce. Partite la domenica alla ita vide la latta, mia viottina vide viottina. Mitico, queste sono le ultime partite, dopodiché ci sarà lo stop per i mondiali in Qatar, che noi chiaramente non ci riguardano, visto che non siamo riusciti ad accedere a quella che è la competizione dei mondiali, ma va bene così, noi lo giocheremo ai mondiali, anche perché il Qatar non è che più di tanto ci piace. Detto questo, passiamo la parola alla musica. Altro pezzo del nostro amico Matteo. She got a promise of love, strapped and fair. E ritorniamo in diretta, questo è sempre solo Jolly Roger e abbiamo parlato, fortunatamente come dicevo prima siamo tutti al completo, è arrivato anche il nostro amico Lucone che ci farà compagnia come sempre, a breve passerò anche lui il microfono per i suoi saluti in lingua che ormai stanno diventando un rituale visto che comunque è un uomo di mondo che gira e gira il pianeta da nord a sud, ne approfittiamo insomma. E detto questo passiamo a un altro pezzo scelto sempre dal nostro amico Matteo. Sai che non mi piace mai guardarmi dentro e ogni volta che ci provo un pugno nello specchio amarsi e odiarsi è uguale. Quanto vale un sentimento? Forse è stato tempo perso, un petalo di rosa nel deserto. Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima. Senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che cosa mi resta di te. Mi resta di te un riflesso di mare, un segno tribale. Mi resta di te anche senza di te l'istinto naturale di venirti a cercare. Tribale, tribale, tribale. E vorrei che fossi qui ogni tanto, anche se ti ho detto mai, mai più. E non vorrei lasciarti qui di ghiaccio, ora che l'asfalto brucia e non ho più una scusa. Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima. Senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che cosa mi resta di te. Mi resta di te un riflesso di mare. Ciò che provo è un letale naufragare. Passo un'altra notte e non so cosa mi resta. Mi resta di te, mi resta di te un riflesso di mare, un segno tribale. Mi resta di te anche senza di te l'istinto naturale. Dopo aver fatto parlare il nostro amico Matteo e prima la nostra amica Alice, passo il mic per le consuete battute del nostro amico Luca. Il deserto del Sahara è in Africa, su questo non ci piove. A momenti ci scappa il morto, poi l'abbiamo ripreso e il funerale è andato benissimo. Grave incidente d'auto. Perdo il braccio destro, la polizia indaga sul sinistro. I run from the liars, the fuel on the fire. Sad days and bad nights, but I never asked for your help. You can't dopo il momento delle battute del nostro amico Luca, il pezzo che ha scelto lui, non potevamo che non salutare il nostro amico Giovanni, che è stato qui con noi, presente e partecipe con la trasmissione. Lo salutiamo e salutiamo tutti gli amici e tutti gli ascoltatori, soprattutto di Trieste. E detto questo, dedichiamo un pezzo a chi ci ascolta, a tutti gli amici e le amiche di Jolly Roger. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. Saluta Trieste. Peccato non avere una telecamera qua e riprenderci mentre siamo tutti belli e spensierati. Si vede proprio che finalmente è venerdì. Prima dicevamo appunto del nostro amico poliglotta Luca, anzi Lugone, perché Lugone ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Ora passo il mic per il suo consueto saluto. Buongiorno. Mitico. E il suo saluto, che vale 100 altri mila saluti. Abbiamo salutato un po' di amici che ci ascoltano. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del canale di Pirate Radio su Telegram. E noi andiamo con la musica. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. E reinsegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento e un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un ciame tu, tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Badiglio e prendo la boccetta di Aducanumab, e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai chi sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia E questi sono i Pinguini Tattici Nucleari. Ricordi, sono tanti belli ricordi, e quindi è giusto che si conservino e che se ne parli soprattutto. E ora di ricordi se ne parla, e andiamo con un pezzo che noi vogliamo dedicare, anzi il nostro amico Lucone dedica a tutti gli amici. Canzoni o UFO, potevamo dimenticarci e non ricordare uno come Rino Gaetano. Abbiamo parlato quindi di Rino Gaetano, della Calabria, di quello che è, insomma, è stato un grande artista, ma visto che di Calabria in parte ne stavamo parlando anche qua con Lucone, il prossimo pezzo lo dedichiamo a tutti i briganti, scusate il gioco di parole, quindi lo dedichiamo a tutti i briganti, perché briganti si nasce e briganti si muore. Ma busata, chitarra e tamburi, ma che sta musica sa da cagna. Ma brigante facimma paura, e qua scuppetta pulimma canta. E qua scuppetta pulimma canta. E mo cantamma sta nuova canzone, tutta la gente sarà bambara. Non ce ne fottero re Bourbona, ma terra nostra non e vanno a lottare, pure Calabria mo se arrabutata, e tu nemico facimma tramma, e tu nemico facimma tramma. Gli ha visto lupo e se mise paura, non sapeva buona qual è la verità, dov'era lupa che magna e creatura, e o piemontese che vimma caccia, e o piemontese che scordata banava, chi ce fa guerra non dà la pietà, chi ce fa guerra non dà la pietà. Mamma se nasce brigante se mor, ma fino all'ultima vimma sparà, questi murimma manatano fiora, e na bestemmia basta libertà, e na bestemmia basta. E ritorniamo in diretta, questa è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, in diretta dal Brancaleone. Abbiamo ascoltato quindi un po' di Calabria, che non guasta mai. E ora andiamo con un altro pezzo che settimana scorsa abbiamo provato a dedicare alla nostra amica Elena, ma questa volta è qui presente, ed è un pezzo di Coez, Niente che non va, siccome quando siamo tutti insieme va tutta la grande, noi lo dedichiamo a tutti quelli che ci ascoltano e magari stanno un po' giù e proviamo a tirarvi un po' su. Nasci per sbaglio, nasci per taglio, salti da un ponte ma non volerai, scrivi canzoni, investi milioni, ne pieni coglioni e non sorridi mai. Parti per Londra, scappi di casa, giri col cuore senza una metà e non hai niente che non va. E non hai niente. Al passato ma non ne puoi più, ti schianti in auto ma il cielo è più blu, c'è chi tocca il fondo e continua a scavare, c'è chi trova l'oro, c'è chi non risale. Hai fatto un figlio senza esserlo stato, hai sempre lasciato le cose a metà e non hai niente che non va. E non hai niente. Thank you. con stile, sei un letto di spine in un monolocale in un'altra città. Se sogni, se lotti, se provi a cambiare o ti sei costruito le tue verità. Hai fatto uno sbaglio, lasci qualcosa e ti brucia se c'è chi se la prenderà. E non hai niente che non va. E non hai niente che non va. E non hai niente che non va. Ed eccoci qua, questo è sempre solo Jolly Roger. Stiamo arrivando quasi a fine puntata, abbiamo ancora scarsi 10 minuti, abbiamo raccontato un po' di cosette, abbiamo fatto le nostre consuete rubriche sui pronostici del weekend calcistico, ultimo weekend di calcio e poi mondiali, abbiamo riso con le battute di Luca, abbiamo ascoltato i racconti della prima lezione di reggaeton di Alice, e insomma è stata una puntata piena di tante cose e soprattutto piena di musica. Ok amici, come prima, la festa è già finita. Se non ti riconosci più non te la prendere con la mia vita, con la tua vita, che sembra un film dentro un film, dentro un film, dentro una foto sbiadita. Un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone che non l'hai nemmeno mai sentita. Ma tu non sei cattiva, no, no, sei buona come il tuo sapore tra le dita. Mare, fammi ci stare bene, dentro c'è tutte cose, siamo già meglio te. Che stare male non vale, se non lo puoi gridare. Portati via ste cose, portale via con te. Oh, oh, oh. E conto milioni le fasi che ho, poi compreso e dico chissà se ho ragione o no. Ehi, hey, io non lo guardo mai al mondo, tu da uno blow. Non ci ascolto, si inconchiglia il mare che ho dentro. Lascio andare, tutto pare, faccio strada e lacrime. Chiudo a chiave e poi scompare tra le cose che ho con te. Dico chissà se i miei mondi sono intorno, tu orbite. Entro in fissi strani giorni come in fondo fai con me. Sul ciglio delle porte tue serrate con lucchette. Dico amarti sotto sopra, forse riesce me. Io tipo come chissà se mi ascolti, come quando chiudi gli occhi, come le cose con testa, ehi hey! Mare, fammi ci stare bene. Dentro c'è tutte cose, siamo meglio e te. Che stare male non vale, se non lo puoi gridare. Portati via ste cose, portale via con te. E forse andranno via tutte ste cose come onde sopra la sabbia, il sole scende, io sto peggio. Ma non t'ho visto e non t'ho detto mai che bello starsene seduti, sai, noi due una scia d'aereo e tutti muti. Mare, fammi ci stare bene, dentro c'ho tutte cose, siamo geni e te. Che stare male non vale, se non lo puoi gridare. Portati via ste cose, portale via con te. Portale via con te. E stare male non vale, se non lo puoi gridare. Portati via ste cose, portale via con te. Ed è una puntatona, è passata a salutarci anche il nostro amico Raffaele. Siamo contenti, insomma, che mano a mano aumentiamo di numero, mano a mano ci ascoltate, mano a mano soprattutto ci riascoltate. E noi proseguiamo con la nostra scelta musicale. Maneskin. Oh mamma mia. mamma mia. Touch my body, I say you're not allowed. You wanna handle me, but I'm a bit too much. I'll burn all the place down, 'cause I'm too fucking hot. Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah. They wanna arrest me, but I was just having fun. I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs. They ask me why it's so hot, 'cause I'm Italian. Love on me, I'm on my knees and I can wait to drink your brain. I'll keep the secret if you let me get a taste. Tell me your limit and we'll cross the line again. Oh mamma mamma mia. Give me a command and I'll do what you ask, 'cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, 'cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, 'cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, 'cause I love when you sing out loud. Oh mamma mamma mia. Spend your love on me, I'm on my knees and I can wait to drink your brain. I'll keep the secret if you let me get a taste. Tell me your limit and we'll cross the line again. Oh mamma mamma mia. Spend your love on me. Mamma mamma mia, tanta roba questo Jolly Roger, come tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E se non ci riuscite ad ascoltare in diretta, mi raccomando, ci sono sempre i podcast, questi servono apposta, sono molto utili soprattutto per riascoltare anche noi stessi. Questa è una delle tante attività che stiamo portando avanti in quel del Brancaleone, l'Original Lab Radiofonico, tutti i venerdì dalle 17 alle 18 al Brancaleone. Salutiamo tutti gli amici, tutte le amiche che ci ascoltano. Saluto la mia family, la Fire Bombabili on Family, quindi Otello, che è passato prima per darci un supporto tecnico come sempre, perché non c'è diretta senza qualche difetto o qualche problema tecnico, ma questa volta ci siamo salvati. Detto questo, salutiamo, come dicevo prima, tutti gli amici, gli invitiamo a passare un fine settimana il più possibile di relax. E ora passo il mic per i saluti dai nostri amici. Ciao! Ciao a tutti e soprattutto sempre forza Roma. Mitico, non avevamo parlato proprio per evitare, insomma, il peggio. E faccio salutare il nostro amico Lucone. Ciao! E visto che ci sta, è la prima volta, ma non è detto che sia, non possa ritornare, il nostro amico Raffaele. Siamo Raffaele, detto bene. Perfetto, e noi salutiamo alla nostra maniera, un pezzo abbastanza originale per quello che è un programma radiofonico, ma visto che il weekend si avvicina e ci trasformiamo in grandi e immensi supereroi. Buon weekend a tutti.